Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali, puntata speciale di Essere Avere. In questo ultimo giorno dell'anno scopriamo insieme cosa ci lasciamo alle spalle e cosa invece dobbiamo aspettarci nei prossimi mesi dal punto di vista dei consumi e delle nuove tendenze. Parleremo di largo consumo, di retail, di marketing, comunicazione e dei fenomeni che passano dalla rete. Quali scenari influenzeranno le nostre scelte di acquisto e di vita? Come si orienterà l'immaginario collettivo? Come si muoveranno i grandi brand? Partiamo dai fondamentali. Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo. E sei anche allegramente inconsapevole del fatto che nel 2002 Oscar De La Renta ha realizzato una collezione di gonne ceruleo e poi è stato in Saint Laurent, se non sbaglio, a proporre delle giacche militari color ceruleo. E poi il ceruleo è rapidamente comparso nelle collezioni di 8 diversi stilisti. Dopodiché è arrivato poco a poco nei grandi magazzini e alla fine si è infiltrato in qualche tragico angolo casual dove tu evidentemente l'hai pescato nel cesto delle occasioni. Tuttavia quell'azzurro rappresenta milioni di dollari e innumerevoli posti di lavoro, e siamo al limite del comico quando penso che tu sia convinta di aver fatto una scelta fuori dalle proposte della moda. Quindi in effetti indossi un golfino che è stato selezionato per te dalle persone qui presenti in mezzo a una pila di roba. Hi, my name is Stereo Mike. Yeah, we got 3 tickets to the Brand Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. Are you going to all in if you want to answer a couple of questions? Mainly, what is Todd's favorite cheese? Jackie just called up and said it was a form of rock for. Let's see about that. Give us a ring ding ding. It's a beautiful day. Citazione cult è quella del Diavolo Veste Prada quando si parla di colori e tendenze. Sapete qual è il colore del 2018? L'ultraviolet, l'ultraviola. È stato individuato dal Pantone Color Institute. Pantone è la grande azienda americana, massima autorità nel settore dei colori, fornitrice di standard per l'intero settore del design. Ogni anno propone una nuance diversa dopo uno studio sui colori nel mondo della moda, dell'intrattenimento e dell'arte. Fantasioso e creativo, illumina la strada a venire, così ha descritto il colore di quest'anno. Lo troverete su molti oggetti di consumo, dai capi di abbigliamento al packaging dei prodotti. Sarà lo sfondo di molte campagne pubblicitarie, accompagnerà la grafica di molti contenuti in rete. Il colore 2017 era il greenery, un verde molto acceso che abbiamo visto ovunque e che ora ci lasciamo alle spalle, insieme alle parole, ai personaggi e agli eventi di questi ultimi 12 mesi, individuati come ogni anno da un altro indicatore particolare, Google Year in Search, un anno di ricerche su Google. Il 2017, ci ha spiegato Emanuela Locci, è stato l'anno dei perché. Iniziamo allora da che cosa ci siamo chiesti. Ma ci siamo chiesti tante cose, devo dire, a metà tra le curiosità leggere, ma soprattutto le curiosità che ci portano a capire di più di cosa succede intorno a noi nel mondo. Infatti, se andiamo a vedere quali sono stati i perché più cercati, sicuramente al primo posto c'è perché la Catalogna vuole l'indipendenza, seguita da 2-3 domande più leggere: perché le cicale cantano, perché si festeggia l'8 marzo, perché si festeggia Ferragosto. Al settimo posto però abbiamo un altro perché importante, perché la Corea del Nord vuole attaccare gli Stati Uniti, e al decimo un altro perché importante, perché c'è la guerra in Siria. Quindi sì, divertimento, sì, curiosità leggere, come le chiamo io, ma tanto interesse per dei fatti che sono comunque molto importanti, che coinvolgono il resto dell'Europa e del mondo. In evidenza tra i personaggi nella vostra classifica c'è la iena Nadia Toffa. Nadia Toffa, devo dire, è salita improvvisamente, ha sconvolto la classifica sia delle parole che hanno avuto una maggior crescita in termini di ricerca nell'anno, sia dei personaggi. Tra le parole che hanno fatto tendenza, quindi che hanno avuto una crescita maggiore in termini di quantità di ricerche, ha superato quello che è stato un fatto molto triste, molto impattante sulle ricerche degli italiani, Hotel Rigopiano. E il grande cruccio che ci portiamo tutti in questo periodo, la sconfitta dell'Italia nella partita Italia-Svezia. Questo è il podio, diciamo, delle parole che hanno creato una tendenza nell'anno 2017. Perché, spiegamolo Emanuela, non si tratta delle maggiori ricerche in termini assoluto, ma di quelle che hanno avuto la maggior crescita. Esattamente. Your Research fa il punto su quelle che sono state le ricerche che sono cresciute di più nel corso dell'anno, ed è per questo che Nadia Toffa risulta in cima alla classifica delle parole di tendenza, come dei personaggi, non solo in Italia ma anche a livello globale. Addirittura prima di Harvey Weinstein, insomma, che è un personaggio di cui si è parlato. E appena dopo Meghan Markle, che ha ricevuto la famosa proposta di matrimonio. Poi invitiamo gli ascoltatori ad andare a guardare la vostra classifica, mettiamo i link sulla nostra pagina Facebook, così che ci sia il quadro completo. Guardando qua e là come meta per le vacanze, Emanuela, troviamo la Sicilia in vetta quest'anno, però la ricetta più cercata arriva da Napoli, il migliaccio. Il sud e tutte le destinazioni di mare hanno sempre un grande ruolo nell'anno di ricerche su Google degli italiani. Le mete di vacanze, se notiamo, sono tutte mare fondamentalmente, quindi tutti sogniamo mare, tutti cerchiamo delle informazioni su luoghi di mare, mentre le ricette hanno sempre quel qualcosa di tradizionale. Al primo posto abbiamo il migliaccio napoletano, la carbonara al secondo posto, la pastiera seguita anche dalla caponata. Torniamo in Sicilia, caponata siciliana. Sapete che un italiano su due sceglie il cibo che consuma, i prodotti alimentari che compra al supermercato, in base al fatto che sia privo oppure a basso contenuto di zuccheri, realizzato senza utilizzo di OGM e privilegiando ingredienti a chilometri zero. Lo rivela una ricerca GFH che, tra le altre priorità legate alle scelte di acquisto, individua anche la presenza di pochi grassi, quella di ingredienti biologici e, per un italiano su cinque, l'assenza di glutine. Questo ci spiega il boom a due cifre dei prodotti salutistici o considerati tali, una tendenza che modifica anche l'offerta dei brand di determinati settori. Guardando al carrello della spesa abbiamo scelto quello del latte e dei latticini. Lo abbiamo fatto insieme a Granarolo, che forse non tutti lo sanno è una cooperativa di 1000 allevatori produttori di latte, e al suo presidente Giampiero Calzolari. Per quasi 6 italiani su 10, ci conferma grazie ad una ricerca realizzata con Nomisma, il nuovo driver di scelta è la salute. Ci sono dei numeri veramente interessanti, appunto più 18% sul vegano, più 20% per quanto riguarda il biologico. Il salutisti c'è anche esso un segno positivo, i piatti pronti un 6,8, che insomma sono numeri interessanti per cogliere la trasformazione, non c'è dubbio. Per quanto riguarda il biologico, credo che sia veramente, c'è un numero che fa riflettere, 1 milione in più di famiglie che scelgono il biologico rispetto all'anno precedente. E la salute sicuramente sta prendendo una rilevanza molto importante, l'assiduità con cui si parla di cibo, di alimentazione. Poi dietro si porta anche un'attenzione particolare, non tanto alla dieta ma al prodotto, mi verrebbe da dire, insomma, la scelta del prodotto. In relazione a tutto quello che abbiamo detto, Presidente, il vostro settore come si sta allineando, guardando anche al futuro? Beh, anche lì, guardando un po' i trend di cambiamento, c'è una quota importante di consumatori che magari abbandona in parte il consumo di prodotti alimentari di origine animale, quindi latte, salumi, carne, eccetera, privilegiando quelli di origine vegetale. All'interno di questo noi ovviamente abbiamo preso atto di questo cambio. In parte, nel caso del latte in particolare, è dovuto ovviamente anche a un cambio culturale, ma anche banalmente al fatto che ci sono meno bambini, quindi meno bambini, quindi meno colazione, diciamo, la mattina, famiglie meno numerose, meno disponibilità al rito, al tempo dedicato al rito della colazione, quindi cosa stiamo facendo? Ovviamente abbiamo orientato la nostra struttura di produzione, prodotto anche sotto il nostro brand prodotti di origine vegetale, soia, riso, avena, cocco, nocciola, mandorla, e poi abbiamo introdotto molte novità. Prima di tutto il biologico, dove abbiamo convertito quasi il 10% del nostro latte e quindi delle nostre stalle al biologico. Poi abbiamo introdotto una linea di prodotti senza sale, un lavoro importante sul lattosio, quindi ci sono molti consumatori che oggi hanno allergie al lattosio, quindi senza sale, senza lattosio, e da poche settimane abbiamo fatto ancora un prodotto, messo sul mercato un prodotto ulteriormente innovativo che è privo di zucchero. Non significa per parte nostra stigmatizzare o demonizzare il prodotto convenzionale, che rimane ovviamente la nostra bandiera, però come dire, assecondiamo quei consumatori che per una ragione o per l'altra prediligono cambiare. Essere e avere. Per questo, senti che abbiamo bisogno di avere molta gente a disposizione. Cosa? E le spiego perché. Noi spenderemo una sfacciata somma di denaro e abbiamo bisogno di gente che si spacchi in quattro, perché ci teniamo, capito? Oh, signore, se mi permette, è nel negozio giusto e nella città giusta quanto a questo. Qualunque cosa scelga qui sarà una gioia mostrargliela, ok? Ok. Mary Pat, sì. Mary Kate, Mary Frances, avanti, svelte, vediamo questo qualcosa. Questo è assolutamente divino. Mi scusi, signore. Sì? Esattamente, per sfacciata somma di denaro, che intendeva? Disinvolta o, diciamo, spudorata? Spudorata, diciamo. Quanto mi piace quest'uomo. In studio con Essere Avere. Beh, l'epoca dello shopping spudorato è senz'altro finita, ora anche il lusso cerca nuovi equilibri tra on e offline, si misura con i nuovi consumatori, i millennials e la generazione Z, la generazione successiva, e soprattutto con nuove dinamiche di acquisto. Secondo l'agenzia Disco, una delle principali agenzie digitali del settore, sono 330 milioni i consumatori nel mondo, per un giro d'affari di oltre 250 miliardi di euro, con i millennials che rappresentano il 45% del settore lusso. Youthquake, del resto, è la parola dell'anno scelta dagli esperti dell'Oxford Dictionary, un altro indicatore di tendenze. In questo scenario, allora, come stanno cambiando le strategie? Che cosa dobbiamo aspettarci in generale nel retail, dal lusso alla grande distribuzione, per il 2018? Lo abbiamo chiesto a Cristina Lazzati, direttrice di Markup e Gidio Week. Possiamo dire che il retail non ha mai avuto così tanta attenzione come nell'ultimo periodo. Anzi, direi che proprio il retail è il nuovo marketing. Lo utilizzano in tanti, lo utilizzano tutti, non solo le catene deputate a questo, ma anche le grandi marche. E quindi sempre di più il retail come mezzo di comunicazione diretto col consumatore. E poi sicuramente ci sono le insegne oggi sono i garanti di quello che mettono in mostra, sempre di più grande responsabilità, ma anche sicuramente grande forza, che magari nel passato era un pochino più in mano alle marche e al mondo della pubblicità, quella classica che tutti conosciamo. Se pensiamo che mai come adesso le private label, che sono la marca del distributore, che certe volte porta il nome dell'insegna e poi si varia, aumenta, ci sono le marche premium, le super premium, eccetera, stanno crescendo in maniera esponenziale. Sempre di più i retailer si appropriano della filiera produttiva, quindi andando anche a cercare dei prodotti specifici, differenzianti gli uni dagli altri, per proporli nel punto di vendita. Per non parlare poi del mondo dei freschissimi, dove che sicuramente oggi basta entrare in qualsiasi punto di vendita ci si rende conto che frutta, verdura, ma anche formaggi, salumi, specialty di vario genere, le gastronomie stanno aumentando, addirittura poi con l'aggiunta di ristoranti e caffetterie all'interno dei negozi. Questo vale per la grande distribuzione, ma vale anche per i negozi del lusso, piuttosto che, se pensiamo che Tiffany ha da poco aperto un caffè all'interno del suo punto di vendita newyorkese, finalmente la colazione da Tiffany si può fare sul serio. E quindi, come vediamo, il food, il cibo, ma il cibo inteso come socializzazione, come momento di pausa all'interno di una vita comunque sempre più concitata, soprattutto nelle grandi città. E questo è assolutamente trasversale, vale per l'Italia così come vale per l'estero. E anche il food si ibrida. City Life, appena aperto a Milano, enorme centro commerciale, dove comunque il focus non è, come era in passato, l'ipermercato, ma bensì le 7 sale, credo, per film, ristorazione, nuove insegne di ristorazioni, molto fresco, molto orientale. E quindi alla fine diciamo che l'engagement, come lo chiamiamo noi, ma che vuol dire semplicemente il fatto di prendere, cioè di attirare il cliente, il consumatore all'interno di uno spazio, che sia centro commerciale o che sia negozio, passa attraverso tante leve che non sono più solo quelle del prodotto e per fortuna non solo quelle del prezzo, ma bensì anche attraverso il fatto che si vivono delle esperienze. Ecco, nel 2018 vinceranno i retailer che sapranno offrire un'esperienza al consumatore. D'altronde l'ha capito benissimo Amazon, che per quanto sia il big dell'online, così come Alibaba lo è per il mondo orientale e non solo, il negozio torna ad essere un punto di riferimento. Bisogna capire come. La pubblicità si basa su un'unica cosa: la felicità. E sapete che cos'è la felicità? Beh, la felicità è una macchina nuova. È liberarsi dalla paura. È un cartellone pubblicitario che ti salta all'occhio e che ti grida a gran voce che qualunque cosa tu faccia è ben fatta. Ed è proprio la pubblicità, la comunicazione, l'ultimo dei settori dell'universo dei consumi che andiamo ad esplorare in previsione del 2018. Lo facciamo con Tiziano Tassi, CEO di Caffeina, agenzia creativa digitale specializzata in campagne di digital marketing. Diciamo che noi siamo osservatori privilegiati perché abbiamo la possibilità di lavorare con grandi brand e questo ci mette in condizione di seguire, no, il target e le persone, quindi l'audience a cui queste marche vogliono comunicare. Da questo punto di vista i trend sono sostanzialmente correlati ai comportamenti delle persone, discende tutto da questo. E devo dire che per l'anno prossimo noi ci aspettiamo che ci sia un consolidamento dei comportamenti relativi ad alcuni canali. Per quanto riguarda il digitale, diciamo che continua l'ascesa dei social media, anche se c'è un consolidamento, perché abbiamo alcuni canali che sono assolutamente forti, come Facebook e Instagram, e altri che stanno scontando delle difficoltà, in particolare devo dire che da questo punto di vista c'è un grande question mark che è Twitter. Inoltre l'anno prossimo vedrà dal nostro punto di vista una suddivisione su questo canale, no? Sui social dell'audience. Ci sono nuovi canali come Musical.ly, che in particolare le generazioni più giovani utilizzano tantissimo e dove spendono ore che possono essere considerati vicini alla nuova TV. Mentre Facebook e Instagram sono ancora canali mainstream che permettono di raggiungere decine di milioni di persone dandoci un prime time sempre attivo. Ecco, parlando di TV, credo che vada sottolineato che tra quelle che sono le strategie di comunicazione e di raggiungimento e di coinvolgimento delle persone da parte delle marche, sicuramente non è da tralasciare questo canale, questo mezzo che per l'Italia è ancora molto importante. Se poi parliamo di futuro, di next step, diciamo che il nostro settore sta vedendo grandissimi cambiamenti e quindi diciamo, ci aspettiamo che possano arrivare mezzi e canali emergenti. In particolare quello su cui noi scommettiamo è quello degli assistenti vocali intelligenti, no? Quindi tutto il mondo di Google Home, Amazon Alexa, piuttosto che i prodotti che Apple o Microsoft introdurranno sul mercato. E questi sono essenzialmente quello che è stato un po' lo smartphone, quando nel 2007 è stato introdotto come concetto e rivoluzionato da Apple. Quindi, se vogliamo, lo dividiamo in due parti. Un consolidamento di grandi trend che oggi sono diventati mainstream e che non si indeboliscono, ma anzi si rafforzano, e poi una scoperta del nuovo che arriva appunto sulla interazione vocale. Questo è la grande novità che io credo ci porterà al 2018. Il nostro mestiere ovviamente è basato sulla capacità di interpretare e utilizzare i dati per offrire messaggi e contenuti rilevanti alle persone. Dall'altra parte tutto questo va fatto in modo etico, perché sono dispositivi, gli assistenti vocali, che pongono una questione, no, relativa alla privacy, come tutti gli strumenti digitali, e da questo punto di vista chiaramente le attività e l'approccio deve assolutamente essere etico e rispettoso della privacy, pur offrendo la possibilità di utilizzare i dati per migliorare il servizio e per migliorare la comunicazione che viene offerta alle persone. C'è chi dice che questo elemento diventerà anche un contenuto di comunicazione da parte dei brand, che dovranno, per essere competitivi, dovranno diventare trasparenti e comunicare le proprie policy di gestione dei dati anche ai clienti, quindi nella comunicazione di prodotto, nella comunicazione aziendale. Che cosa ne pensi? Dal nostro punto di vista diciamo che la trasparenza, e io aggiungo anche un altro termine che è la autenticità, sono le grandi sfide dei brand per gli anni futuri. Il digitale ci rende tutti più vicini, più connessi, più trasparenti a nostra volta verso chi ci offre dei servizi o delle comunicazioni, e da questo punto di vista anche i brand lo diventano per le persone. Se le marche diventano più simili alle persone, le marche devono essere le persone che noi vogliamo incontrare. Un tema di cui tutti parlano in questo momento è quello delle fake news, che per il mondo del marketing e della pubblicità, e non strettamente invece per il mondo dell'informazione, certo, è un tema comunque scivoloso. Ecco, che cosa ne pensi? Penso che le fake news siano il cancro della comunicazione e dell'interazione digitale. Non c'è niente di peggio In un mondo che è orizzontale e democratico per definizione, no? Quello di internet, se lo vediamo dal punto di vista dell'idealismo, questa orizzontalità, questa capacità, no, di a volte di intermediare le informazioni, che è stata un grandissimo vantaggio, una grandissima rivoluzione, oggi viene messa in fortissima discussione da questo tema. Io penso che in questo possano tornare a svolgere, quindi vedo la grande opportunità e la grande dimensione, no, come ruolo, possono tornare a svolgere quella funzione importantissima di mediatore le testate, i media cosiddetti tradizionali, cioè le testate che sono costruite un nome, una reputazione, facendo per decine di anni un'informazione di qualità. Le fake news sono nemiche di tutto il mondo positivo che rappresenta internet e il digitale, e abbiamo visto, o abbiamo forse assaggiato, quali sono gli effetti che possono produrre sulla società, parlando di scelte politiche, venendo al tema delle elezioni, piuttosto che arrivando a tutto il tema della disinformazione sulla salute, sull'alimentazione e così via. Finisce qui questa puntata speciale di Essere e Avere. Domenica prossima torniamo al nostro consueto orario, cioè le 22. Grazie in regia a Filippo Aureggi. Un saluto e un augurio di buon anno da Maria Luisa Pezzali.